a così favorire un incontro con l'autore, l'autrice e il pubblico, perché per noi è importante anche continuare un percorso di promozione della lettura, ma anche quello di aprire dei nuovi orizzonti e di scoprire delle occasioni individualmente di un percorso da seguire. Ecco, no? La curiosità non deve mai morire o andare scemando, ma nemmeno, diciamo, la memoria. Ecco. E in questo senso mi riallaccio anche all'ospite di questa sera, che è appunto Mario Milani, che saluto e ringrazio di essere venuto fin qui a Bolzano da noi. Ringrazio il professor Andrea Sarri del Liceo Classico Carducci, scuola di Bolzano, con cui abbiamo organizzato anche questa serata e ne abbiamo anche organizzate delle altre. Ecco, c'è un sodalizio che continua negli anni e con temi sempre molto importanti che ci vengono suggeriti appunto anche dal professor Sarri. Parlavo della memoria, la memoria che verrà poi celebrata per altri aspetti anche la prossima settimana, il 27 gennaio, è importante perché ci sono degli eventi che forse sono già, appartengono già alla storia, ma in realtà la storia è troppo ancora recente per essere così codificato in una storia, sono ancora freschi per certi versi ma anche lontani. Ecco perché ieri sera ho spiegato alle mie figlie Piazza della Loggia, loro chiaramente una 19 anni, una 17, una 8 non avevano ben presenti di cosa si trattasse, ma hanno presente invece quelli che sono stati gli anni bui, gli anni di piombo, lo stragismo e quello che la nostra Italia, il nostro paese, come anche altri paesi in Europa, hanno dovuto subire. Oggi, se io parlo di stragi alle mie figlie, loro vengono in mente gli attentati dell'ISIS, ecco, non è, hanno per loro questo. Ma la teoria del terrore, il vivere in questo modo, volendo manifestare la propria libertà, però con la consapevolezza che ci sono anche dei rischi grossi, o che semplicemente un cittadino quando si muove, penso all'Italicus, possa essere vittima di una strage, penso alla strage di Bologna, per me quella è stata la prima vera strage nell'80, ecco, è un ricordo indelebile perché avevo un'età dove potevo ragionare, ecco, prima si perdono un po', si sfilacciano, no? Ne parlavo prima con la mia collega. E per noi è importante che questa sera sia con noi qui Mario Milani, perché l'associazione che ha messo in piedi, che continua a mandare avanti a Brescia la Casa della Memoria, è un esempio direi molto importante per la nostra Italia, perché non si dimentichino certe cose, perché si riconosca ufficialmente anche quelle che sono state le battaglie e soprattutto quelle che sono state le vittime di un evento tragico che aveva ben altri scopi e che purtroppo spesso, se non se ne parla, si dimentica e sembra che non sia neanche esistito. Ecco, si presta al fianco poi a tutta una serie di manipolazioni. Ci sono tanti libri, la stessa associazione è ricchissima di pubblicazioni, vi invito anche ad andare a vedere il sito che è molto bello, molto articolato, ci sono tantissimi documenti. La biblioteca, come sua usanza, ecco, visto che siamo fuori sede, prepara delle vetrine legate al tema e quindi lascio la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora di essere venuti e ringrazio voi per l'attenzione e di essere qui partecipi con noi. Grazie. Bene, allora grazie, un saluto anche da parte mia, grazie a Valeria, grazie ad Alessia, con questa collaborazione tra liceo classico e linguistico, aggiungo a Valeria, sì, e biblioteca Claudia Augusta, che insomma va avanti da un po', e grazie a voi per la vostra presenza. E ci sarebbero tanti modi per introdurre la serata, il nostro ospite Mario Milani, che è stato intervistato questo pomeriggio anche in diretta da Paolo Mazzucato, dalla trasmissione Zeppelin della radio regionale, durante il viaggio in treno di avvicinamento, no? da Brescia a Bolzano. E c'è un documento che ci ha portato Manlio, preparato da un gruppo di giovani bresciani, in cui ascolteremo in forma di diario, quindi giovani di oggi che ripercorrono gli anni della strage, nel nostro sottotitolo abbiamo messo dalla strage del 74, 1974, 28 maggio, alla sentenza del luglio del 2015, due date essenziali. Ascolteremo subito il video che ci ha portato Maglio, dura 7 minuti, quindi è un'introduzione anche con i tempi giusti. E all'interno di questo video ascolteremo il documento sonoro originale della strage. Il comizio, cioè del sindacalista Castrezzati, che parla appunto in piazza della Loggia poco dopo le 10 del mattino, comizio che viene interrotto dall'esplosione della bomba. Io inizierei, ecco, prima di partire con il video, leggendo i nomi delle 8 persone che hanno perso la vita quella mattina di maggio, e così proprio per dedicare a loro la memoria, dal momento che si parla di memoria interiore, no? Roberto Bobbio diceva: c'è la memoria esteriore delle commemorazioni, c'è la memoria interiore che possiamo portare nei nostri cuori ascoltando i nomi di queste persone: Alberto, Clem, Giulietta, Livia, Luigi, Bartolomeo, Euplo e Vittorio. Direi che possiamo a questo punto passare al documento, al video. Amici e compagni, lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di matta fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. E le preoccupazioni sono tanto più acute ove si tenga conto che la macchina difensiva delle istituzioni democratiche della Repubblica si è messa in moto solo dopo che alcune fortuite circostanze hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione eversiva ampiamente finanziata e dotata di mezzi micidiali sufficienti comunque a creare terrore e sbandamento. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta, almirante che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, state calmi, state calmi, state calmi, a Milano al... Dimenticavo di dire prima che il documento, il video che abbiamo visto, è stato prodotto e pubblicato nel 2014, nel 40° anniversario della strage, e manca appunto naturalmente la puntata successiva, la Corte d'Assise d'Appello bis di Milano, il 22 luglio del 2015 ha emanato l'ultima sentenza che è a questo punto, lo ricordava Manlio anche oggi alla RAI, un punto di non ritorno. Cioè, mentre le altre sentenze, tutte delle quattro istruttorie precedenti, si erano chiuse con l'assoluzione degli imputati, con il proscioglimento degli imputati presenti, ma che avevano comunque ricostruito il quadro storico-giudiziario all'interno del quale maturò la decisione di organizzare la strage di Piazza della Loggia, nella cosiddetta strage della tensione, nel luglio dello scorso anno due imputati rimasti, Carlo Mario Maggi, all'epoca dirigente di Ordine Nuovo, organizzazione neofascista veneta, e la Fonte Tritone, collaboratore del Sismi di allora, sono stati condannati, cioè Maurizio Tramonte, all'ergastolo e riconosciuti colpevoli. Manlio ha detto a caldo, dopo la sentenza, questo è un punto di non ritorno, un punto da cui non si può tornare indietro, ma è anche un punto di partenza, un punto per incominciare una storia nuova. In che senso, Manlio, allora hai inteso commentare la strage con queste parole? Beh, intanto buonasera e grazie dell'invito, ringrazio molto in particolare i rappresentanti della biblioteca che ci permettono di fare questo incontro. Ma perché un punto? Intanto precisiamo subito, siamo ancora in attesa delle motivazioni della sentenza, dopodiché sicuramente ci sarà un ricorso, quindi una nuova Cassazione, e quindi siamo ancora una volta di fronte comunque ad una sentenza non definitiva. Anche se ci sono tutti i presupposti perché venga, però si tratterà di vedere la Cassazione, che già aveva annullato il precedente, la precedente sentenza d'appello nel 2013, poi, e da qui il rifacimento del processo d'appello a Milano, perché a Brescia c'è soltanto una sede di appello, e quindi bisogna andare in questi casi in un'altra sede, la più vicina era appunto quella di Milano. Quindi sicuramente avremo la Cassazione, e quindi al momento non possiamo ancora dire che è una sentenza di carattere definitivo sul piano giudiziario. Io credo che però lo sia dal punto di vista, come dire, di verità storica, perché è una sentenza che sancisce, direi quasi in maniera definitiva, quello che è il contesto in cui la strage si è verificata e il perché di questa strage e chi l'ha organizzata. Ma ci dice anche qualche cosa di più, ci dice anche che sancisce che Piazza della Loggia è strettamente legata a Piazza Fontana, cioè alla strage che avvenne a Milano il 12 dicembre del 1969. E perché dico questo? Dico questo perché a Piazza Fontana, se è vero che non abbiamo ufficialmente degli imputati, dei condannati, scusate, è altrettanto vero che l'ultima sentenza, quella del 2001, si chiuse dicendo: se oggi avessimo come imputati Freda e Ventura, i due rappresentanti dell'estrema versione della destra, con le prove che oggi abbiamo sarebbero stati condannati. Però emette anche una condanna, che poi è caduta in prescrizione, eccetera, che riguardava Carlo Digilio. Carlo Digilio era l'armiere di Ordine Nuovo Veneto, il gruppo eversivo al quale si possono addebitare le varie stragi di quel periodo, del quinquennio 69-74. Ebbene, è importante perché la sentenza d'appello, la prima sentenza d'appello di Brescia, non quindi quella riformata a Milano, nelle motivazioni della sentenza indica Carlo Digilio, nel frattempo morto e quindi non poteva essere condannato, come colui che ha costruito la bomba che è finita in Piazza della Loggia. Con la condanna quindi di Digilio noi abbiamo esattamente la definizione che Piazza Fontana, che in Piazza Fontana è nato il progetto eversivo della cosiddetta strategia della tensione, un progetto che si è sviluppato nel tempo e che ha trovato conclusione in una certa misura in Piazza della Loggia, e quindi poi ci sarà la coda del treno italico. Quindi noi abbiamo esattamente la definizione che nel corso di quegli anni è esistita un progetto, una strategia, è esistita un'organizzazione, Ordine Nuovo Veneto, che aveva come obiettivo il sovvertimento delle istituzioni democratiche. In nome prima dell'anticomunismo, Piazza Fontana, Questura di Milano, Peteano, eccetera, in nome di un tentativo di riscoprire l'unità antifascista per quanto riguarda Piazza della Loggia. Non a caso Pasolini dividerà proprio nel Romanzo delle Stragi, farà proprio questa divisione: Piazza Fontana riguarda il periodo dell'anticomunismo, Piazza della Loggia riguarda il periodo contro l'antifascismo, perché contro l'antifascismo. Credo che tutti noi ricorderemo che all'indomani del golpe cileno il segretario del loro Partito Comunista Berlinguer, sulla rivista, sul settimanale Rinascita, scrisse 3 articoli lanciando l'ipotesi di un compromesso storico. Compromesso storico che prevedeva l'incontro delle forze popolari antifasciste che dovevano avere il compito di affrontare la grave crisi economica, eccetera, eccetera, ma anche di preparare quella che Aldo Moro definì una terza fase della democrazia italiana, finalmente facendo in modo che essa diventasse una democrazia compiuta, in cui cioè il tema dell'alternanza diventasse un tema fondamentale. Anche allora infatti si parlava di una ipotesi di riforma della legge elettorale che permettesse questo processo di alternativa. E in questo senso, ultimo elemento, possiamo anche dire che in realtà la strategia della tensione di quel quinquennio in realtà si chiude nel 1978 con la morte di Aldo Moro, cioè con la morte di uno dei fautori della necessità di recuperare l'incontro tra le forze popolari per determinare finalmente un nuovo processo e un nuovo avvio del cammino della democrazia italiana. Ecco, questi che io credo che siano dati storici che non possiamo più, che trovano anche sul piano giudiziario, finalmente hanno trovato realtà. È tutta la verità? No, è una buona parte però di verità. Cavallari diceva che noi dobbiamo saper usare e cogliere la verità possibile, quella cioè che ti è data in quel momento, che è stata resa possibile scoprire, individuare, definire, incontrare. Ecco, io credo che oggi noi abbiamo incontrato questa verità e che riguarda, ripeto, la verità non più soltanto di Piazza della Loggia, ma la verità del quinquennio 1969-1974 con, ripeto, e lì troviamo anche le motivazioni della morte di Aldo Moro. Ecco, in questo senso io l'ho definita una sentenza estremamente importante. Ed è proprio importante anche perché, vedete, l'impunità totale, che cosa determina? Determina la scomparsa del fatto. Voi avete visto a un certo punto lì un cartello che venne esposto alla conclusione del processo di primo grado dell'ultima istruttoria, in cui si disse: qui non è successo niente, perché l'ennesima impunità, sentenza di assoluzione, disse: noi non abbiamo niente, quindi non è nemmeno esistito il fatto. E allora in questo senso è estremamente invece importante, perché qui è codificata questa realtà, e partendo da questa definizione noi possiamo a questo punto interrogarci e cercare di capire le ragioni, perché di quei fatti, di quelle stragi, interpretarli, scoprirli nei suoi meccanismi e attraverso questo cercare di andare oltre. Cosa che invece l'impunità ha il senso della cancellazione. La verità giudiziaria, l'identificazione di un colpevole, certifica fortemente invece l'esistenza del fatto. Dicevo oggi in radio, non sapendo che Agnelle è una frequentatrice di Bolzano e credo che sia davvero importante e meritoria da questo punto di vista, Agnelle, commentando il processo di Norimberga all'indomani quindi della fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi che ha portato alla condanna dei gerarchi nazisti, disse: ebbene, il valore di questo processo è proprio perché storicizza i fatti, li fissa nella storia. Nessuno potrà più dire che non ci sono stati, al di là, ognuno potrà tentare tutte le revisioni che vuole, ma nessuno li potrà più negare. Ma contemporaneamente il compito che compete alla democrazia e quindi a tutti noi è quello di affrontare delle ragioni per poter quindi andare oltre senza dimenticare. Ecco, guardare oltre, riconoscendo l'esistenza certificata dei fatti e delle connesse responsabilità. Manlio, nel 40° anniversario della strage alla Camera dei Deputati, aveva tenuto un discorso che poi è stato pubblicato dal quotidiano La Stampa il giorno dopo, il 10 maggio del 2014. Manlio scriveva all'inizio, raccontando i fatti, appunto, tornando ai fatti, queste parole: le istituzioni repubblicane, il 28 maggio del 74, e il patto costituzionale, ereditato dalla Resistenza, furono l'obiettivo di quella violenza, no? Della violenza di Piazza della Loggia. Quella bomba collocata nel cuore della polis riconfermò così l'irriducibilità del conflitto tra violenza e democrazia. Quindi la democrazia che è alternativa alla violenza e ad ogni forma di violenza, anche alla violenza del linguaggio. Nel libro fondamentale che si chiama Sedie Vuote, pubblicato dal Margine di Trento nel 2008, un gruppo di allora studenti che dialogava con le vittime degli anni di piombo, Mario Calabresi, Agnese Moro, Benedetta Tobagi, Giovanni Bachelet, Manlio Milani e altri ancora. Manlio che era soffermato sulla violenza di quegli anni contro l'antifascista nel caso appunto di Brescia, però ti eri soffermato anche sulla violenza del linguaggio e ti sei chiesto, e lo hai continuato a fare anche in interventi più recenti, addirittura su quali sono state le mie responsabilità allora, in quell'epoca. Mi piacerebbe molto che tu potessi così condividere con noi questa riflessione, perché mi è sembrata di una onestà intellettuale, di un coraggio, di una forza stupende. Sì, gli aspetti sono due. Perché io ho parlato di irriducibilità del conflitto? E implicitamente, dicendo così, dicevo anche, e mi allacciavo all'esperienza di Piazza della Loggia, laddove il tentativo che venne messo in atto in quei momenti, se da un lato era con la bomba il cercare di provocare una reazione, ci fu un momento che questa reazione poteva esplodere e stava per esplodere. Però nello stesso tempo, e poi venne bloccata, eccetera, eccetera. E fu bloccata in un modo, a mio avviso, estremamente importante e che vale la pena di essere ricordata, perché ci dice come sia indispensabile, rispetto alla violenza, mai rispondere con altrettanta violenza. Come cioè il meccanismo che è, per esempio, in atto ancora oggi, in Medio Oriente, non soltanto in Medio Oriente, uno degli scopi fondamentali della violenza è quello di fare in modo che tutti si collocano sullo stesso piano. Tu usi la violenza, anch'io rispondo con la violenza. C'è un esempio estremamente importante di Nelson Mandela in Sudafrica, che era già in prigione, e a un certo punto arrivano dei suoi militanti arrestati dall'Afrikaner e gli raccontano che cosa era avvenuto. Dice: siamo stati arrestati, eccetera. Però dice: sai, Mandela, Nelson, prima di essere arrestati anche noi avevamo fatto prigionieri alcuni Afrikaner, e le torture che abbiamo subito gliele abbiamo fatte anche noi. E lui gli rispose: bravi, così siete diventati esattamente come loro. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti, ecco perché io ho parlato di irriducibilità del conflitto, ma dobbiamo stare attenti che è facile scivolare, invece dimenticare quella che è il processo democratico, che richiede che alla violenza si risponda con la forza della democrazia, che è stato quanto abbiamo risposto e che è stato alla base fondamentale per cui i totalitarismi e la violenza del Novecento sono stati sconfitti. E io credo che alla fine del Novecento chi ha vinto la democrazia, ma non ha vinto la violenza, che non significa che si cancelli la violenza. E fu importante in Piazza della Loggia la lezione, perché? Perché immediatamente dopo la bomba, al di là delle cose che prima sentivate, la parola d'ordine a un certo punto che scatta è quello: rientriamo tutti nei luoghi di lavoro, perché era in atto uno sciopero generale. Il rientrare nei luoghi di lavoro, se da un lato rispondeva anche alla necessità di operare il controllo su quanto stava avvenendo, serve proprio invece a riflettere tutti insieme. Ritorniamoci nei luoghi di lavoro e cominciamo a riflettere su ciò che è accaduto. E alla sera saranno nei quartieri che si svilupperà questo. E la conclusione fu proprio quella di capire il senso di quella bomba, che diversamente dalle altre stragi, questa è una strage esplicitamente politica. Avviene infatti nel corso di una manifestazione antifascista organizzata da tutti i partiti politici dell'arco costituzionale, dalle istituzioni, dalle organizzazioni civili, cattoliche, laiche, come l'ACLI, l'ARCI, eccetera, eccetera, dove le organizzazioni sindacali dichiarano lo sciopero generale. Quindi lì il disegno è esplicito. Oggi noi eversori diciamo apertamente qual è il nostro obiettivo. Mentre nelle altre stragi, da Piazza Fontana fino a Bologna, il tentativo e l'atto terroristico ha in sé solo ed esclusivamente lo scopo di ingenerare paura, insicurezza, non sentirti assolutamente a posto, guardarti uno quando hai accanto l'altro, la valigetta abbandonata, essere cioè in un perenne costante stato di tensione, in Piazza della Loggia invece si colpisce una manifestazione, al punto tale che nel corso dell'ultimo processo un appartenente a Ordine Nuovo, Fabrizio Zani, dirà, ecco, e fa una distinzione tra la strage del Treno Italico e la strage di Piazza della Loggia. La strage del Treno Italico dirà, quella non può essere ascrivibile a noi, perché quello è un atto terroristico che ha voluto colpire cittadini di qualsiasi tipo, in un luogo, il treno. Quella di Piazza della Loggia, ovviamente usa il condizionale, come sarebbe stata diversamente un'altra cosa, potrebbe essere a noi ascrivibile, perché lì sono stati colpiti dai militanti, quindi degli avversari politici. Infatti in Piazza della Loggia gli 8 nomi che prima venivano letti, di questi 5 erano insegnanti, ma 2 erano resistenti che avevano fatto la lotta partigiana e che erano lì quella mattina a dirci: noi che abbiamo lottato per conquistarla, siamo qui ancora una volta per difenderla. Quindi la risposta sarà di questo tipo e sarà tanto più forte nella misura in cui dirà: a questo punto, se al centro dell'attacco ci sono le istituzioni, ebbene allora il servizio d'ordine e la gestione della piazza ce lo assumiamo noi direttamente come cittadini. Le forze dell'ordine verranno estromesse dalla piazza. C'è anche un atto di sfiducia in questo senso, ma fondamentale il messaggio fu: siamo noi che siamo stati colpiti. E quindi, se siamo stati colpiti noi, dobbiamo essere noi che reagisce rispetto a questo. E tutti durante i funerali, tutto il servizio d'ordine sarà fatto solo ed esclusivamente da cittadini. Avremo questa incredibile condizione. Presente il Presidente della Repubblica Leone, tutte le varie autorità, eccetera, eccetera. Ebbene, in quel momento, da un lato si dice: noi ti difendiamo, rappresentanti, perché voi siete in questo momento le istituzioni, ma nello stesso tempo dirà quello servizio d'ordine attraverso i fischi: noi vi fischiamo perché come classe dirigente avete fallito e quindi ne chiediamo il ricambio. E sarà tanto più importante questa, da dove nasce contemporaneamente però questa consapevolezza. Permettetemi un elemento di natura quasi personale. Il pomeriggio, quando io vengo via dall'obitorio, perché non mi andava più di stare in quel luogo, vedere Livia così su questa pezzo di marmo, lei che era una ragazza estremamente dinamica, i miei amici, i coniugi Trebeschi, eccetera, con i quali la sera prima avevamo cenato insieme, ormai morti, non mi trovavo più in quel luogo. E allora vengo via e ritorno in piazza. E lì avviene un processo che mi ha fatto, che per me è stato un punto di guida. Nel momento in cui ritorno in piazza, increduli, la piazza è la piena, che quando mi vedono, la piazza si apre e mi accoglie come una sorta di manto materno che accoglie i propri figli, e mi esprime una straordinaria solidarietà umana. Ci sono state delle donne che mi hanno fatto conoscere i loro bambini, hai visto, è qui con noi, eccetera, eccetera. Il valore del ricostruirsi insieme. E quella bomba che ha lo scopo, la violenza, di rompere le relazioni, in quel momento venivano ricostruite. Però nello stesso tempo mi dice anche un'altra cosa. E mi dice, guarda, tu sei stato colpito in maniera incredibile. Quasi impensabile, insomma, nessuno di noi può sentire ciò che senti tu, però ricordati di una cosa, quella bomba ha colpito tutti, in un modo diverso ha colpito te, ma ha colpito anche noi. E io credo che quella sia stata una lezione per me straordinaria, perché mi ha fatto capire che io non potevo, come dire, diventare quasi, tra virgolette, proprietario di quel fatto, ma che la mia testimonianza, che l'avrei dovuto avere nel tempo, doveva partire dal presupposto che dovevo farmi carico della conoscenza, della storia, del perché di quella violenza che, ripeto, riguardava tutti. Ed è all'interno di questo percorso che io arrivo anche alle conclusioni che prima tu velocemente accennavi. E cioè anche al tema del linguaggio, perché nel ripensare a quello ho dovuto ripensare anche alla mia storia e agli anni in cui, per esempio, per fare un esempio che riporto lì, quando andavamo nei cortei che gridavamo Basco Nero il tuo posto è al cimitero, beh, in realtà noi esaltavamo la stessa identica violenza che andavamo subendo in quel momento. Poi diventerà contro i rossi, che cambierà, ma il linguaggio che ha in sé la forza della violenza, che ha come prospettiva quella di rompere le relazioni e mantenere e mantenerti anche come vittima in una logica di pura e semplice contrapposizione, e quindi vedere la storia attraverso solo ed esclusivamente la tua dimensione, mentre noi abbiamo bisogno di ripensare la storia cercando anche di cogliere quali sono state le nostre responsabilità rispetto a quegli eventi, che cosa cioè non abbiamo fatto per impedire che quegli avvenimenti potessero non accadere. Ecco, io credo che nessuno possa rifiutare di interrogarsi su questo, anche sulle proprie responsabilità, il che non significa giustificare qualche cosa, ma significa semplicemente diventare parte attiva di una coscienza storica che noi vogliamo fare in modo che diventi coscienza pubblica, e diventerà tanto più coscienza pubblica soprattutto nelle nuove generazioni, nella misura in cui sapremo guardare a tutte le parti, e poi quindi, comprendendo i fatti, saperle anche scegliere e discernere rispetto alle cose avvenute. Ecco, sono tante le cose che mi vengono in mente ascoltando Manlio. Il gruppo di giovani studenti trentini nel libro Sedie Vuote lo ha definito militante della verità, della ricerca della verità. E senza verità poi è difficile appunto avere, o è più difficile avere fiducia nelle istituzioni e quindi nella democrazia e nei principi costituzionali che presiedono alla nostra democrazia. In un intervento ancora più recente, sempre tenuto a Trento, un convegno sul tema del perdono, Manlio è stato ospite nel 2013, assieme a biblisti, giuristi, filosofi, gli atti poi sono stati pubblicati l'anno scorso, nel 15, dalla Fondazione Kessler di Trento. Il tema era perdono, due punti, negazione o compimento della giustizia, e Manlio scrive tra le altre cose, dice: troppo spesso gli storici reclamano il distacco del tempo, ne parlava Valeria anche prima introducendo la serata, il distacco del tempo dalle passioni e dalle emozioni, al fine di poter ricostruire sapientemente gli avvenimenti. Tutto per gli storici sembra ridursi ai documenti, al contesto in cui i fatti sono avvenuti. Al limite il racconto della vittima, sì certo, è una testimonianza da ascoltare, come garbata cortesia, però invece, dice Manlio, essa, la testimonianza della vittima, andrebbe colta come conseguente sofferenza inflitta dal peso del male. E storia quindi come analisi critica e non magari appunto come memoria contrapposta o come contrapposizione di parte, storia che non può prescindere quindi dalla storia di dolore che la storia porta o può portare con sé. Poi dice Manlio: ignorare la sofferenza è perdere di vista il significato e le conseguenze della violenza, la disumanizzazione prodotta. Tu, Manlio, hai detto la strage che assomiglia al male radicale di cui parlava Primo Levi nei Sommersi e Salvati è in realtà un atto umano, ci appartiene, non possiamo non fare i conti con questa realtà. Mi piacerebbe così sviluppare un po', sentire da te questo aspetto. Sì, anche qui ci sono due aspetti. E intanto, per essere precisi, io non credo tanto nel perdono in sé per sé. Gli do un valore nel senso che, al di là di considerarlo ovviamente una scelta individuale, gli do però un valore e un'importanza notevole nel momento in cui io mi pongo il problema, significa che voglio andare già oltre la vendetta o il rancore, e questo io credo che sia un elemento di estrema importanza. La memoria di questo paese è molto basata tragicamente sul rancore, sulla rancorosità, e che rende quasi impossibile trovare una memoria pubblica condivisa sui fatti. Poi è chiaro che la mia memoria con la memoria di colui che ha messo la bomba non può che essere una memoria completamente diversa, ma ciò non toglie che posso trovare un ascolto, una volontà di ascoltare anche le ragioni che hanno portato questo e cercare di capire il perché di quelle ragioni. Quindi il perdono lo vedo in questo senso. Però nello stesso tempo, se noi vogliamo ricostruire la storia, noi dobbiamo sapere ascoltare tutti gli attori della storia, e quindi dobbiamo sapere ascoltare anche il colpevole. Avendo presente questa particolarità, che il colpevole mi può raccontare le ragioni di una scelta, io gli posso raccontare le conseguenze di quella scelta. Ma nell'ambito di una ricostruzione della storia, ambedue le voci devono avere risonanza. Anche per due ragioni, anche qui. Perché da un lato non possiamo assolutamente dimenticare la colpa e il male che la colpa produce, ma dall'altro lato non possiamo nemmeno restare prigionieri della sofferenza. E il ridimensionamento della sofferenza passa anche attraverso il saper ascoltare colui che ha compiuto quel gesto e che ha davvero operato un percorso di profondo ripensamento delle cose che lui ha fatto. Ma c'è un terzo interlocutore, che è lo Stato, che sono le istituzioni. E che troppo spesso le istituzioni invece hanno agito per impedire lo svilupparsi, il disvelamento della verità. In modo particolare, direi, nel periodo dello stragismo. Se noi nelle varie stragi abbiamo sostanzialmente, tenete conto che la sentenza di Brescia avviene dopo 41 anni e non è ancora finita, e tenete conto che contemporaneamente è aperta un'altra inchiesta e sarà quindi la sesta istruttoria di questo processo, voi capite che significa che qualche cosa non ha funzionato. E che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato il rapporto tra magistratura e istituzioni. Noi abbiamo avuto addirittura uomini dei servizi e delle istituzioni che hanno raccontato una serie di fandonie alla magistratura, le hanno nascoste. Vi faccio un esempio. Nell'ultimo processo il generale Maletti, capo dei servizi segreti dell'epoca, oggi vive in Sudafrica perché è stato condannato ed è scappato dall'Italia, condannato per aver depistato sulla strage di Piazza Fontana, conosce sostanzialmente quasi in diretta che ci sarebbe stato l'attentato di Piazza della Loggia. E al processo, interrogato in via conferenza stampa dal Sudafrica, ci dice due cose. Ci dice: noi sapevamo che a Brescia doveva esserci un attentato, ma pensavamo che fosse un attentato nei confronti di cose, ma non certamente nei confronti delle persone. E si ferma lì. Però emerge un'altra cosa. In una velina, che è una nota informativa redatta attraverso l'informazione di Maurizio Tramonte, che verrà condannato a Milano all'ergastolo, si scopre che tre giorni prima, il 25 maggio, ad Abano Terme, c'è una riunione del gruppo eversivo Ordine Nuovo, diretto da Carlo Maria Maggi, nel quale si discute su come realizzare quell'attentato che noi da tempo abbiamo in atto e che sostanzialmente avevano aspettato, perché dovevano aspettare i risultati del referendum sul divorzio, che come voi sapete avviene 15 giorni prima della strage di Brescia. Aspettare il referendum per il divorzio perché erano convinti o avevano le assicurazioni che nella misura in cui avessero vinto gli antidivorzisti, il compromesso storico si sarebbe lì fermato e quindi non ci sarebbe stato il governo di solidarietà nazionale, l'ipotesi politica che poi finirà con la morte di Moro. Ebbene, in quel contesto Maurizio Tramonte, avremo Carlo Maria Maggi che dirà questo: la strage è uno strumento di lotta politica e noi lo dobbiamo saper utilizzare, e bisogna utilizzarlo in questo modo. Prima si fanno singoli attentati minoritari, poi si fa un botto, poi fatto il botto ci si ferma, si preannunciano altri botti, ma non si dà corso. E quando l'opinione pubblica si era tranquillizzata e di fronte ai nostri proclami dirà vabbè, sono i soliti che raccontano balle, allora a quel punto lì si farà un nuovo botto. E spiega cioè l'idea di strategia della tensione, come, qual è il meccanismo di questa strategia. E qualche giorno dopo dirà: la strage di Piazza della Loggia non può restare un fatto isolato. Provate a pensare, il 4 agosto avremo la strage del treno italico. Ebbene, questo rapporto viene inviato al generale Maletti, lui dice che l'ha ricevuto ai primi di luglio. Su questo rapporto lui scrive: notizie estremamente importanti, passare il tutto alla magistratura. Alla magistratura non arriverà mai, tant'è che sono questi documenti che noi scopriremo nel 1994, quindi 20 anni dopo. Ma c'è di più. Quando nel mese di agosto del 74 il generale Maletti viene sentito dai giudici di Brescia, questi non solo non gli dice dell'esistenza di quel rapporto, ma addirittura dice secondo me bisogna andare a guardare in Valtellina, comunque quando, perché lì c'è un gruppo eversivo, il MAR, che sta operando e forse può darsi che abbia dei collegamenti. Comunque se sapremo qualche cosa ve lo diremo. E quando gli abbiamo chiesto, gli avvocati gli hanno chiesto, ma scusi, perché lei non ha raccontato, in fondo un mese prima non mi venga a dire che non lo sapeva, c'è scritto, sì, è vero che io ho scritto, però dice adesso non mi ricordo più perché non gliel'ho raccontato. Ora, voi capite? Ecco, questo è un episodio per dirvi come anche la magistratura sia stata messa in gravissime difficoltà. E come sta, ma soprattutto perché di questa impunità. E allora qual è la ragione dell'impunità? È chiaro che Maletti viene a sapere in diretta, Maletti per dire quindi, che cosa è avvenuto. È probabile che loro non abbiano organizzato o dato l'input di fare la strage. Io credo che sia anche così. Diversamente da Vincenzo Vinciguerra, colui che ha fatto la strage di Peteano, dice in realtà le stragi le hanno organizzate i servizi segreti. Io su questo ho dei dubbi. Certamente però nel momento in cui il fatto è avvenuto i servizi coprono. E perché coprono? Perché loro sanno ciò che io so. E se io, attentatore, ho detto tutto a te, è chiaro che tu, che nella misura in cui tu pensi di poter scaricare le mie responsabilità, beh, sappi che anch'io allora a quel momento dirò ciò che io so, cioè la politica del ricatto. Questo è il problema. L'impunità quindi serve a coprire il progetto e a coprire coloro che sapevano, con grave danno ovviamente per la democrazia del nostro paese. Ecco perché quelle veline vengono casualmente scoperte oltre 20 anni dopo la strage di Piazza de Roggia, che se l'avessimo avute immediatamente, io la rabbia che provai quel giorno ascoltando Maletti fu esattamente questa. D'accordo, potevi anche non sapere o pensare che avessero fatto un attentato a qualche cosa. Ma poi hai visto quello che è successo, perché non l'hai detto? Se tu l'avessi detto, probabilmente la strage del treno italico non sarebbe avvenuta. E questo sì è imperdonabile, perché tu eri consapevole del meccanismo e del disegno che era in atto. Ecco, quindi noi abbiamo bisogno di cogliere questi aspetti, quindi ricostruire la storia ricostruendo tutto, la dimensione umana di ciò che la violenza distrugge, il senso e la colpa della responsabilità di chi l'ha compiute, ma ascoltando anche loro, permettendogli di raccontare ciò che sanno, e nello stesso tempo anche però avere presente che ci sono responsabilità istituzionali che devono essere tuttora disvelate. E non è un caso che stiamo, nonostante la direttiva Renzi, stiamo ancora litigando proprio in questi giorni con il governo per l'apertura degli archivi e quindi di tutti i documenti prodotti in quell'epoca. Eccoci, il tempo passa, le 19:07:10, si potrebbe anche, se siete d'accordo, sentire, allargare il discorso anche a voi, cogliendo l'occasione appunto di avere qui Maglio, che poi magari ci potrà parlare anche del progetto del Memoriale della Memoria di Brescia, che riguarda anche noi, riguarda anche l'Alto Adige degli anni 60. Poi appunto magari ce ne parlerà Maglio tra breve. A proposito appunto di storia da ricostruire, di fatti appunto da accertare. E, se qualcuno desidera, insomma, ogni momento da questo momento in poi, ogni momento è buono. E, magari Mario, allora sì, potremmo vedere a questo punto il progetto che è in corso che avete in corso a Brescia, no? E che appunto ci riguarda. Memoria attiva, la Casa della Memoria di Brescia, fondata da Manlio, è una casa di memoria attiva, lavora con le scuole, con gli insegnanti, è potremmo dire cittadinanza attiva, pubblicazione appunto di materiali, di convegni, come diceva anche Valeria all'inizio, e anche memoria che si deve vedere camminando per strada, partendo proprio da Piazza della Loggia, dal cestino dei rifiuti, no, nel quale appunto fu depositata la bomba. Sì, la Casa della Memoria intanto è bene ricordare che si compone di 3 soci fondatori: l'Associazione Familiare delle Vittime della Strage di Piazza della Loggia, Comune di Brescia e Provincia di Brescia, cioè le istituzioni. Al centro di questo luogo, di questo centro di documentazione, ci sono le istituzioni. Quindi c'è la sofferenza umana, ma c'è anche il tema delle istituzioni, della democrazia, della responsabilità, eccetera, eccetera. E nel corso di questi anni, in questo anche facilitati, aiutati anche dalla giornata della memoria del 9 maggio, in modo particolare dal Presidente della Repubblica Napolitano, abbiamo cercato anche di approfondire questo percorso. E come quindi cercare di trasformare la memoria come un punto di arrivo in cui ognuno possa ascoltare e ritrovarsi? E allora abbiamo preso spunto da una pubblicazione del Quirinale, la quale ha raccontato, o meglio, ha inserito tutta una serie di nomi che riguardano le vittime dei vari attentati avvenuti dal periodo postbellico ad oggi, ovviamente legati quindi alla violenza politica. In che cosa consiste questo percorso? Il ragionamento che noi abbiamo fatto è: non può essere il classico monumento dove uno ci deve andare, perché la storia è parte della nostra quotidianità. Il passato è il nostro presente e ci deve sapere, e dobbiamo saperlo analizzare, interpretare per poter guardare oltre, per poter guardare al futuro. Quindi fare in modo che presente e passato possano incontrarsi e convivere contemporaneamente. E allora abbiamo pensato che i 430 nomi indicati in quel libro, noi ne abbiamo fatti qualcuno di più perché abbiamo messo anche quelli della violenza politica e non quindi direttamente legati ad aspetti di tipo terroristico o di attentati di varia natura, e abbiamo detto dobbiamo farlo emergere. E allora, partendo dal luogo della strage, stiamo costruendo un percorso che all'interno della città incrocerà la storia della città e anche del paese. Incrocerà per esempio Piazza Tito Speri e quindi le 10 giornate, quindi la lotta risorgimentale, che possiamo considerare forse il primo esempio di liberazione del paese, quindi anche di formazione dell'identità nazionale. Arriverà in Castello, dove erano stati rinchiusi di partigiani durante la resistenza, uccisi, torturati, eccetera, eccetera. E questo percorso sarà tutto segnato in terra, quindi in un camminamento, di piccole formelle, larghe più o meno una ventina di centimetri, ognuna delle quali riporterà il nome di una vittima, e il luogo, e la data, e la professione. E la professione è importante perché è lì a dimostrare che tutte le attività sociali e le classi sociali sono state colpite, come cioè la violenza non riguarda in faccia nessuno, non è che selezioni il povero, no, noi abbiamo avuto la guardia carceraria, la casalinga, il professore, il magistrato, eccetera, il giornalista, eccetera, eccetera. Quindi è un camminamento che è fatto da oltre 400 formelle messe una a distanza dell'arte, in maniera tale che il cittadino camminando possa fermarsi, leggere il nome e scoprire come la violenza, come il nome richiami a ciò che la violenza produce, la distruzione delle persone, la distruzione della vita, e come quindi ci si debba interrogare anche su questo aspetto, il valore della vita messo in discussione dalla violenza. E abbiamo iniziato naturalmente con le vittime di Piazza della Loggia, poi abbiamo iniziato in ordine cronologico. E le prime formelle che abbiamo collocato dopo quelle di Piazza della Loggia riguardano gli avvenimenti dell'Alto Adige. E cioè noi abbiamo collocato già tutte quei, in particolare sono quasi tutti militari, sono tutti militari, mi pare che siano 15 o adesso non ricordo bene il numero esatto, di forse di più, sì, perché sono 57, di cui abbiamo anche collocato in terra in questo camminamento tutte le vittime degli avvenimenti collegati alle vicende dell'Alto Adige, alle contrapposizioni di tipo etnico, eccetera eccetera. E qui mi piace però ricordare un elemento molto importante e che è alla base anche delle scelte che abbiamo fatto, cioè il valore del dialogo. E recentemente è stato pubblicato un libro che riguarda proprio le vicende dell'Alto Adige. Il titolo è sostanzialmente La forza del dialogo, e riconduce e pone e racconta come a livello internazionale ancora oggi la soluzione che è stata data al conflitto dell'Alto Adige sia una soluzione di estremo, sia un esempio estremamente positivo, dove da un lato si è cercato di capire, in particolare della componente tedesca, della Subpartei, dice questo, racconta questo libro, come la violenza non avesse alcuna possibilità di sbocco, e dall'altro lato come l'Italia si è resa conto che doveva riconoscere anche il valore dell'autonomia dentro, pur restando dentro il quadro di unità nazionale. E lì è stata trovata la soluzione. E quindi come in sostanza, poi uno può criticare, non criticare, ma il dato fondamentale è stato che attraverso il dialogo difficile, ha avuto bisogno di tempo, di superare contrapposizioni, eccetera, eccetera, però alla fine ha vinto. E oggi quel trattato viene portato ancora oggi a livello internazionale come un esempio di possibile soluzione positiva dei conflitti e soluzione positiva che rifiuta la violenza, accantona la violenza, ponendo evidentemente al centro la riconoscibilità complessiva delle, diciamo così, delle parti in causa. Permettetemi questo evidentemente brutto termine, anche in una certa misura improprio. Ecco, noi con questo percorso vogliamo dire questo, vogliamo dire che la violenza è rottura, ripeto, delle relazioni, è modalità che crea contrapposizione, che esalta la figura del nemico, ma che proprio in quanto esalta la figura del nemico diventa impossibile, rende impossibile anche la convivenza civile, che è tanto più necessaria oggi nei conflitti che abbiamo aperto, nei processi migratori, nella necessità di capire che ciò che accade, anche se magari accade a 10.000 chilometri lontano da noi, ha maggior ragione oggi che non esistono più barriere di informazione e tutt'altro, dobbiamo sapere che ci riguardano e ci riguardano fino in fondo. E allora noi abbiamo assunto questo memoriale partendo dagli avvenimenti dell'Alto Adige per dire anche noi: la forza del dialogo può sconfiggere la violenza che ha prodotto questo insieme di vittime. Eccoci. Potremmo quasi fermarci qui, sentire da parte vostra una domanda, un intervento, una riflessione, un ragionamento. Io ne ho uno qui da leggervi di Manlio, ma lo terrei proprio come considerazione conclusiva. So che è difficile, insomma, rompere il ghiaccio a quest'ora, prendersi, no, vorrei dire soltanto questo. Le passo il microfono? No, ci sentiamo? Sì. Prego. Uno Stato democratico ha il diritto, anzi il dovere, di difendere i propri cittadini. Qui noi ci troviamo di fronte a un seguito di stragi, di uccisioni. Cosa ha fatto lo Stato? Non si sa. Alcuni processi sono ancora in corso, altri dovranno essere dimenticati e così via. Ora, qui si tratta di non fare la filosofia del diritto, ma si tratta di difendere i poveri cittadini. Beh, sicuramente dovrebbe essere così, però stiamo attenti che nei conflitti, voi sicuramente avrete sentito spesso gridare strage di Stato. Abbiniamole alle cose che prima vi dicevo io a proposito di Maletti. Però proviamo a chiederci anche perché oggi conosciamo queste cose e a chi dobbiamo le cose che conosciamo. Se la difesa della democrazia, e io sono convinto che il terrorismo in Italia è stato sconfitto in modo particolare attraverso le grandi manifestazioni, la straordinaria reazione che ha avuto il popolo italiano nel suo insieme, è altrettanto vero che ciò che noi conosciamo lo dobbiamo a molti uomini dello Stato. E quindi noi nell'analizzare le cose non possiamo dimenticare di sapere e di dover distinguere le responsabilità, cogliere i conflitti che ci sono anche all'interno. Una delle ragioni per cui nasce, per esempio, il terrorismo di sinistra, nasce attorno all'idea che questo Stato, dopo le stragi, è uno Stato orientato, ormai diretto verso la cosiddetta fascistizzazione, e quindi non abbiamo altra alternativa che quella di prendere in mano le armi e condurre una lotta armata che possa liberarci di tutto ciò. E questo avveniva mentre da un altro piano le grandi manifestazioni popolari condannavano e lottavano contro questa violenza, ma nello stesso tempo riaffermavano con grande forza il valore di non cadere in regole profondamente antidemocratiche, che potevano mettere davvero in discussione i concetti fondamentali della convivenza civile. Ecco, io credo che dobbiamo sempre avere presente questa straordinaria capacità, non dimenticare mai di distinguere, cercare di entrare nel merito delle cose. La sicurezza è un elemento fondamentale, ma stiamo attenti che può essere anche facilmente strumentalizzata. Perché se noi crediamo che tutto possa risolversi a livello di ordine pubblico, sbagliamo profondamente. Quantomeno non riusciremo a capire perché di questa violenza. Occorre difendersi, occorre avere uno Stato che sia sempre più trasparente, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte nel sapere anche cogliere che non di fare, come si dice, non so se si dice anche da voi, di tutta l'erba un fascio, ma saper distinguere. Io credo che questo sia un elemento fondamentale, altrimenti noi corriamo il rischio che la storia possa ripetersi delegando qualchedun altro in nome di una presunta capacità di risolvere i problemi dell'ordine attraverso la sicurezza, di poter delegare poteri che mettono in realtà in discussione il sistema civile dentro il quale noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. Quindi da un lato abbiamo avuto la sconfitta del terrorismo, di quel terrorismo mi riferisco, attraverso la reazione popolare e anche di buona parte dei partiti o di parte di partiti che all'epoca sussistevano, ma abbiamo avuto anche uomini profondamente democratici che credevano nella Costituzione, nel compito. Molti di loro sono stati uccisi, pensate a magistrati, giornalisti, poliziotti, uomini di cultura, eccetera, eccetera, che avevano semplicemente, cercavano di dare degli sbocchi positivi ai processi di evoluzione della nostra società. Quindi dobbiamo saper cogliere, denunciare, ma anche vedere le cose positive, altrimenti noi rischiamo davvero che di mettere in realtà, attraverso alcune ipotesi, in discussione quello che è tutto il nostro sistema democratico. Uomini e donne dello Stato. Sì. Vero, sì, come dicevi. Io dicevo, nel libro, ecco, nel intesa libro, come persona, esatto, non sì, nel libro, genere maschile. Ecco. Nel libro, infatti, con Sedie vuote c'è un'insistenza sul ruolo della donna nella società italiana degli anni 70, e mi viene in mente che la giudice che ha letto la sentenza, che ha presieduto la Corte d'Appello di Milano, è una donna, è un magistrato donna. Ma soprattutto che tre donne delle vittime di strage in Piazza della Loggia, tre morti delle vittime in Piazza della Loggia sono appunto donne. Sono appunto donne, sì. Insegnanti. Insegnanti, sì. E vi leggo la conclusione dell'intervista fatta da Manlio al gruppo di studenti di Trento. Mi sembra che abbia anche uno spessore di spiritualità, di teologia laica, o comunque di riflessione sul senso autentico della vita, e dice: mi è capitato di pensare al valore dell'antifascismo, nel senso che se il fascismo è ideologicamente negazione della vita, l'antifascismo è l'affermazione del principio della vitalità umana, e non soltanto della vita. Credo ci sia del vero in tutto ciò. Scrive Hemingway, perché suona la campana, non mi dispiace morire, mi dispiace smettere di vivere. Ecco, commenta Manlio, vivendo si riesce ad andare oltre l'attimo che è stato. Ecco, io ringrazierei di cuore Manlio per la sua...